Oltre Tevere, Vaticano e dintorni. Di Katia Caramelli e Don Willy Volonté. Una buona domenica da Katia Caramelli. Che Cuba si apra al mondo e il mondo a Cuba. Così esortò Giovanni Paolo II durante la sua storica visita nel 98 e sicuramente dopo quel viaggio qualcosa a Cuba è cambiato per quanto attiene al ruolo della Chiesa e alla libertà religiosa. Ora, dal 26 al 28, i cubani riceveranno la visita di Benedetto XVI in un momento in cui si parla anche di una conversione di Fidel Castro. Joaquín Navarro Valls è stato il portavoce di entrambi i papi e così ricorda il viaggio di Giovanni Paolo II. C'era la novità assoluta di quel viaggio in un contesto molto molto singolare e direi molto difficile per la Chiesa in Cuba. Oggi il clima non è che ha cambiato moltissimo, ma la Chiesa, la gerarchia ha un ruolo sociale che prima non aveva. Continuano molte difficoltà, però si è aperto dopo quella prima visita di Giovanni Paolo II, uno spazio nella vita sociale cubana che è più sostanzioso per l'attività della Chiesa, come si è dimostrato tra l'altro recentemente in alcuni casi difficili dove la Chiesa ha avuto un ruolo di mediazione tra certe richieste di libertà della società cubana e le autorità del paese. Lei ebbe modo in quell'occasione di confrontarsi molto con Fidel Castro. Che persona trovò? Era una persona forse un po' diversa di quello che la, non lo so, quasi il topico fuori di Cuba presentava. Era un uomo con una certa dignità personale. Io penso che lui era sincero quando pensava e diceva che voleva aiutare il suo popolo. Allo stesso tempo mi è sembrato che aveva una incapacità enorme per capire il disastro che stava combinando in quel paese, il disastro umano, la mancanza di libertà, una serie di cose, questo sembrava non rendersene conto. Oggi si parla tanto della conversione di Fidel Castro, che rapporto secondo lei aveva allora con la fede, com'è cambiato dopo l'incontro proprio con Wojtyła? Naturalmente ho avuto l'opportunità di parlare con lui, mi pare che furono 6 ore di seguito, quindi molto tempo. Però quello che di lui stesso mi ha detto non considero che appartiene alla sua coscienza e appartiene anche alla mia discrezione. Comunque ho avuto l'impressione che il tema, chiamiamolo il tema religioso, non era un capitolo del tutto chiuso nella sua vita, anche se non faceva nessun tipo di manifestazione esterna, però internamente io penso che non era un capitolo assolutamente chiuso. Ora tocca a Benedetto XVI, che cosa di più potrà fare il Santo Padre? Ecco, io penso che è un'opportunità straordinaria questo viaggio, no? La Chiesa in Cuba, anche se come dicevo prima ha guadagnato uno spazio sociale, una maggiore presenza, è molto lontano dal poter accudire spiritualmente, umanamente, formativamente ai cubani che hanno un fondo di religiosità, di cristianesimo, ma che hanno tanto bisogno di formazione. Benedetto XVI, con la ricchezza concettuale, con i temi straordinari che lui sa manifestare, può dare un contributo straordinario in questa dimensione della formazione delle coscienze in quel paese. Potrà contribuire straordinariamente a una maturazione che non è già soltanto, come direi, intraecclesiastica o confessional cattolica, anche umana di quella gente che vivono in un isolamento spaventoso. Ora c'è Don Willy Volonté. La riforma sanitaria negli Stati Uniti è sempre stata una delle preoccupazioni principali del presidente americano Barack Obama. Tra le varie misure volte ad estendere le garanzie dell'assistenza sanitaria, si prevede che i dipendenti delle scuole, ospedali e istituzioni cattoliche ricevano obbligatoriamente dai datori di lavoro la copertura assicurativa per ottenere mezzi destinati al controllo delle nascite, tra cui, oltre l'uso dei contraccettivi, il previsto uso della sterilizzazione e mezzi certamente abortivi come la spirale e le pillole dei 5 giorni dopo. Naturalmente i vescovi cattolici degli Stati Uniti si sono opposti energicamente a questo tipo di riforma, nonostante la politica del bastone della carota usata dall'amministrazione Obama, che ha mandato in avanscoperta alcuni influenti membri cattolici del suo governo, tra cui il vicepresidente. Tre sono i valori in gioco in questa partita tra la Chiesa cattolica e il governo americano: la libertà del vivere secondo le proprie convinzioni religiose, la salvaguardia del valore della vita negato dalla propaganda dei mezzi contraccettivi, il valore della retta ragione e dei fini etici che la ricerca scientifica deve rispettare. Ci sembra che in questa occasione la saggezza non stia proprio dalla parte del presidente Obama. Si può comprendere allora perché un'altra grande battaglia culturale e civile nella liberalissima America è in gioco, cioè quella dell'esercizio del diritto all'obiezione di coscienza. Già Chesterton scriveva: «Si affacciano giorni in cui fuochi verranno accesi per testimoniare al mondo che due e due fanno quattro».